falta ni el dinero ni el amor. Tiene mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, el alma y de dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena del mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena del mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. Sabía leer tequila blanco con su sal me da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena del mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena del mi corazón. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. Sabía leer tequila blanco con su sal me da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena del mi corazón. Ay, ay. Io sono nella Fossa di Leoni. Buonasera a tutti. Abbiamo fatto un inizio un po' diverso dal solito. Buonasera a tutti, buonasera da Rockwave. Si va bene, va benissimo. Come posso dire, non è un film di Tarantino, però siamo a Rockwave stasera. State bene? È il Quenta della Chica e la Tequila, la band vostra. Ma non è un film di Tarantino, no? Non è un film di Tarantino. Ciao ragazzi, arrivederci. Buonasera a tutti, Rockwave. Bellissimo, questo è un gruppo di Treviso, ma è un gruppo che ci ha praticamente catapultato nel Messico o nella California. Cosa dite, ragazzi? Intanto ragazzi. Ciao, sì, c'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto, esattamente. Adesso vi presentate uno a uno, strumenti compresi, dai. Allora, io sono Davide e sono la voce. Il cantante, il vocalist, cantante. Dai, vai. Stefano, armamenti e munizioni. Armamenti e munizioni. Stefano, chitarre. Esattamente. Nostro tastierista, vai. Sì. Sono Ivan, suono il pianoforte. Il nostro batterista. Eccolo qui, sono Roberto, ciao a tutti. Benissimo, e tocca a te, basso. Sono Andrea, bassista e logistica. Bassista e logistica, esattamente. Come posso dire, nella Fossa di Leoni si sta molto bene. Un inizio scoppiettante, musica assolutamente americana, ma non americana, un po' roots, un po'. Qualcuno vi ha avvicinati ai Counting Crows, qualcuno vi ha avvicinati a Davis Matthews Band, qualcuno vi ha avvicinati alla musica di la musica che dà forza, una musica potente, una musica che dà molta grinta. Come è nato il progetto dei cinque ragazzi che hanno formato questa band? Dei cinque samurai. Dei cinque samurai. Allora, intanto volevo presentare la band. La band si chiama Il Quento della Chica e la Tequila. Siamo appunto una band mista di Treviso, alcuni di Treviso, alcuni di Padova, il bassista Andrea di Sandorà. Che questo progetto è nato un po' per... Quanti anni fa innanzitutto? Quanti... Due settimane fa. Ah, due settimane fa, perfetto. Ride anche Marco che è in regia, Marco Borgato stasera in regia. Ciao Marco. Dimmi. No, è nato 3 anni fa questo progetto. Mm. Ci sono i ragazzi che stanno facendo dei segnali. No, stanno tirando qualche cavo. Stanno tirando cavi in testa. Esattamente. Si stanno impiccando con i microfoni, mi sembra. E niente, questo progetto è nato 3 anni fa un po' dall'incontro di questi musicisti, insomma, che ci siamo incontrati in uno studio di registrazione come turnisti per un lavoro, insomma, per terzi. E da lì è nata appunto una bella amicizia, è nato proprio un rapporto, oltre che lavorativo, un rapporto personale, che dopo abbiamo diciamo portato in musica, quindi abbiamo portato su nastro, proprio con diciamo con l'unico scopo di divertirci, quindi con l'unico scopo di suonare insieme, di passare momenti insieme, cioè quindi potevano essere prove, grigliate, tante prove. Grigliate. Infatti c'è un pezzo che parla della grigliata perfetta, certo. Cioè, esatto. Surfisti. Ma la ragione non era che voi vi avete messo insieme per proporre una musica di un cantautore, dare una mano a un cantautore? Ma allora no, allora diciamo che noi lavoravamo come turnisti, con musicisti per questo cantautore che è Sergio Borsato. Che lo salutiamo chiaramente. Ci siamo conosciuti così. Da lì appunto, avendo fatto il disco insieme, abbiamo detto vai, ma troviamoci a buttare giù qualche idea, a buttare giù a fare qualche prova, così. E niente, poi da lì è partito tutto. Io e Davide, il cantante, avevamo un po' di pezzi nel cassetto scritti da un po' di tempo con varie esperienze precedenti. Che esperienze precedenti c'erano praticamente? Allora diciamo che le nostre esperienze, diciamo che noi eravamo dei due metallari, di quelli proprio tosti. Non hai però la maglietta da metallaro stasera, assolutamente. No, in effetti, le abbiamo tutte con i buchi, ormai non ce le abbiamo messe talmente tante che stanno nel cassetto. Ora devo mettere quindi all'inizio c'era il metallo e poi lentamente le cose sono cambiate. No, poi in realtà no, non sono cambiate, anche perché i nostri show sono comunque molto energici, molto carichi proprio di adrenalina, quella tipica della musica rock, però diciamo che l'esperimento che abbiamo voluto fare è stato quello proprio di sostituire gli strumenti elettrici, quindi di sostituire gli amplificatori piuttosto che le tastiere, con diciamo strumenti più acustici, come il pianoforte, certo. Il piano a coda e le chitarre acustiche, le chitarre classiche, per dare anche un sapore un po', diciamo, oltre che diverso, anche un po' più caldo. A proposito del più caldo, noi abbiamo citato prima i Counting Crows, a me è venuto in mente anche Alejandro Escovedo. Noto amico. No, Alejandro Escovedo è un musicista americano di grande fama. Scusa la mia ignoranza. È stato prodotto anche a Marche Ezioni, quel musicista. Quindi Alejandro Escovedo è un musicista di un certo peso americano che ha sempre fatto questo genere qua. Allora, si arriva, qualcuno potrà dire, la Bamba, ricordiamo qualche pezzo di anni fa, i Los Lobos, quindi, parlando dei Los Lobos, però Alejandro Escovedo faceva sia genere Los Lobos, cioè quella direzione là, sia il genere assolutamente melodico. Ma lo fa ancora? Alejandro Escovedo come musicista esiste ancora, assolutamente, vero Marco? Alejandro Escovedo, ha fatto parecchi dischi molto interessanti. Cercati Alejandro Escovedo. Bisogna eliminare Alejandro Escovedo. Musicalmente... Passo e chiudo. Musicalmente è un musicista molto valido che ha qualche attinenza con voi. Chiaramente lui è un musicista, cioè... Un singolo. Voi siete una band, però ha una band decisamente tosta, decisamente importante. A me ricordava quello. Sì, a me ricordava questo qua. In ogni caso, musicalmente siete nati così, dal metallo siete passati al genere. Da vari momenti. Esattamente. Comunque, in ogni caso, ognuno di noi lavora anche in altri progetti. Certo, certo. Band, quindi a partire insomma da... Il gong va bene. Fa un'altra volta. Ecco, ottimo. È tutto dal vivo, assolutamente tutto dal vivo. Anche i suoni. Dimmi. Infatti domani ragazzi collegatevi su Facebook e guardate la foto o il filmato che posteremo di come ci siamo attrezzati in una stanza 2x3 in cui ci sono comunque 24 microfoni, qualsiasi scoresa ci sono 24 microfoni però e sono sufficienti e non erano neppure sufficienti prima, no, abbiamo provato. Esattamente. Ok, facciamo una cosa di questo genere per dare l'inizio, come sempre. Apriamo la finestra, presentiamo un pezzo da disco che avete scelto. Certo. Allora, noi vi faremo sentire il singolo che è uscito il 13 di gennaio, se non sbaglio. L'auto, è un'autoproduzione totale vostra questa? Certo. Sì, sì, assolutamente. Esattamente. Autoproduzione per scelta, un po' per necessità chiaramente del periodo, perché ormai le etichette producono poco. E perché The First Tale? Perché il primo. Perché il primo, assolutamente. Perché, ah beh, il primo, sì, sì. Il disco si chiama First Ale perché appunto è il primo racconto, cioè perché appunto tutto il disco segue comunque, i testi del disco seguono un filone, un'unica storia. Certo, certo. E vi facciamo sentire la seconda traccia del disco, che è il singolo del disco, si chiama Follow Me, e un buon ascolto a cari amici ascoltatori. Rock Wave, Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Stained by ink or blood, music not written on enchanted by breath. Baby, what are you waiting for? Living for memories. Baby, maybe later, call me when you Radio Veneto Rock. Dove è partita l'idea? Beh, allora, diciamo che noi abbiamo fatto tutto in maniera molto spontanea. Mm. Il nostro progetto in generale è per certe cose è poco ragionato. Mm. Non abbiamo premeditato quasi nulla. Niente, praticamente nulla. Nel momento in cui abbiamo finito la parte di produzione e abbiamo deciso di darci in pasto alla gente, sì. Ci piaceva avere comunque un pezzo. Tanto era molto accattivante, entrava subito nel discorso. Sì, devo dire, abbiamo fatto molta fatica a sceglierlo in realtà, perché il disco è abbastanza vario. Certo, cioè un po' decisamente di tutto. Vario, sì. Qui ci sono, se vogliamo, meno atmosfere latine e magari più atmosfere, se vogliamo, un po' USA. Sì, decisamente USA. Sì. Davvero, abbiamo fatto un lavoro anche nella scelta dei pezzi da mettere nel disco, poco premeditato. Ed è stato lo stesso tipo di lavoro che abbiamo fatto anche mentre li scrivevamo i pezzi. Ho capito. È stata un po' una liberazione per tutti, facendo i turnisti, ognuno ha messo quello che aveva dentro nei pezzi. E il risultato è questo. Se non altro spontaneo, poi chiaramente sta alla gente. Il pezzo è nato così praticamente, poi l'avete smussato, l'avete costruito perché doveva andare avanti, doveva sentirsi come singolo. Sì, no, in realtà è tutto a posteriori. È tutto a posteriori? Sì. Anche la quel giro di tastiera, cioè, quel giro di piano che c'è dentro. Quello lì è nato in studio. È nato in studio. O in preproduzione, adesso non mi ricordo. Forse in studio. Allora, nei pezzi, è stata data molta attenzione alla scrittura per essere sicuri perché fosse quello che volevamo dire in sostanza. Poi però ci sono dei punti fermi, ma allo stesso tempo c'è un sacco di spazio per l'interpretazione. In studio in realtà abbiamo fatto una versione di quello che è come eseguiamo il pezzo, che poi adesso alla quale adesso cerchiamo di restare aderenti. Ho capito. Più aderenti, però con tutta la libertà. Cioè praticamente un canovaccio centrale che poi esatto. Che poi si sviluppa. Molto è stato improvvisato. Sì, se sì, vuoi sì. Un po' il concetto del jazz, dove hai una struttura, hai un pezzo come framework su cui lavorare e poi però lo personalizzi anche estemporaneamente. Posso dire buona la prima o quasi? Nessun pezzo nel disco ha più di 3 take, se ricordo bene. Sì, esatto. E questo è molto bello perché proprio si riesplica l'anima del live fare solo 3 take. È stato registrato anche insieme. Sì. Okay. A parte la voce che è stata usata è una voce guida di Davide che cantava, noi abbiamo registrato tutti insieme. Sì. E questo penso che si rifletta è una vostra caratteristica. Esatto. Il problema è che quando improvvisi in studio, dopo riproporre dal libro le stesse cose, non ti ricordi assolutamente. Poi ogni volta si tocca fare diverso. Li avete provati, posso dirvi di questo, li avete provati questi pezzi prima dal vivo e poi li avete incisi oppure no? Sì. Noi abbiamo fatto praticamente alla fine, prima di entrare in studio, sì. Avevamo tipo 2 che ne suonavamo fuori. Ho capito. Ma li suonavamo anche in maniera completamente diversa rispetto agli registrati. E poi abbiamo affittato una stanza in un agriturismo qui a Sacile, vicino praticamente. E di un nostro caro amico che è Umberto, lo salutiamo. E siamo stati là 3 giorni a provare a fare la preproduzione, registrare, ascoltare. E niente, poi dopo alla fine siamo andati in studio con quella preproduzione che aveva la funzione di canovaccio proprio. E da lì ovviamente dopo tutto diverso perché come notoriamente le preproduzioni anche non servono un pizzo. Anche sono indicati dal collo del vino friulano, non pare che quello che sia. Esattamente, la cosa va molto bene. Ok, adesso visto che siamo sollecitati tutti quanti, partiamo con un altro pezzo live. Cosa ragazzi? Pronti? Allora il prossimo pezzo si intitola Mama's Freak. I remember what my mama Ok, bellissimo, a me veramente una grande, un grande feeling. A proposito di feeling, di sensazioni, ho letto sulla vostra biografia, avete dato un tocco particolare ad ogni strumento, escluso il tastierista che non ha scritto niente sulla biografia. Perché a volte è meglio tacere. È meglio tacere. Dunque, partiamo da Davide, che è il cantante, hai citato Nietzsche. Sì, sai che non ricordo che cosa ho scritto. Sì, hai detto praticamente: senza musica la vita sarebbe un errore. Questo era Nietzsche che l'ha citata. Sì, la mia di sicuro. Esattamente. La mia di sicuro. Io non ho... Beh, che ricordi, ho praticamente sempre suonato. Hai sempre suonato. Ho sempre cantato. Mm. E davvero la mia vita non avrebbe senso. Senza musica. Sì. Sono d'accordo con te. E mentre il chitarrista, tu hai scritto che la chitarra è un unicum. Praticamente come il liquore, come il liquore, come il liquore, è la tua ragione di vita. è fondamentale la chitarra. Ma cosa vuoi? Cioè, i chitarristi sono tutti un po' sono molto, molto legati al proprio strumento. Io ho scritto sulla mia, sulla mia tua biografia, sulla tua pagina. Sento la chitarra un po' come il prolungamento del mio fisico, no? Esattamente. Ma è vero, cioè, molto spesso, non so, ho gente magari che ci viene a sentire a suonare, che mi chiede: ma che cosa hai fatto in quel momento? Hai fatto la... Io gli dico: non ne ho idea. Cioè, proprio perché quando suono sono in un'altra dimensione completamente. Anche adesso non so neanche con chi sto parlando. Dove sono, ragazzi? Sei a Blue Radio Veneto, sono le 22:31 in questo momento. Questo è un mercoledì. Passiamo col bassista. Tu hai detto una cosa giusta: il groove è una percezione continua che c'hai proprio dentro, assolutamente. Sì, sì, sì. È una questione di feeling. Cioè, a me piace, ho dato una definizione di quello che è per me il groove. Cioè, per chi non è avvezzo alla musica, il termine groove indica una sintonia che si genera tra un gruppo di musicisti, ma anche non di musicisti, tra un gruppo di persone che stanno comunicando qualcosa. Sì. Ed è una cosa che si sente a livello subliminale, è una percezione che ti muove. E, essendo bassista e facendo parte della sezione ritmica con il mio buon... Fondamentale sezione ritmica, fondamentale sezione ritmica. Grazie mille. e con il mio buon collega Bobby, l'interazione tra basso e batteria è il binario su cui dopo corre il treno. Quello fa muovere molto bene tutto ed è un... Il groove per me è una parte essenziale, cioè l'essenza di questo scorrere è una cosa essenziale per me, in una trasmissione emotiva che può essere... Certo, e Roberto ha detto una cosa similare a te, cioè praticamente e la roba più importante è trasmettere agli altri, vero Roberto? Sì, come avete potuto notare, queste sono le prime parole che dico stasera, quindi... Ciao Bobby! E poi sarete citati tutti quanti, parlerete tutti quanti, poi verso le 23 ci sarà una cosetta che vi accomunerà tutti quanti, abbiate fede. Dai, vai Roberto, vai. Dicevo, preferisco suonare al parlare, mi esprimo meglio, quindi... Perfetto, suonare e parlare è la stessa cosa, però suonare è meglio che non parlare, assolutamente. Sì. Specialmente perché uso le voci di altre 4 persone. Cosa vuol dire la batteria in una band come questa che ha spesso e volentieri è acustica? Guarda, per me è stata un'esperienza diversa da tutte quelle che avevo fatto prima. Fondamentalmente è il quento, è stato creato da Steve, da Dave e da Ivan. Da Ivan, che è qua vicino a me, Ivan. E dopo parliamo anche con lui. Doveva rimanere soltanto un progetto appunto di chitarra, voce e piano. Il passo successivo è stato quello di farmi ascoltare questo materiale e di chiedermi cosa... Il tuo parere? Sì, cosa ne pensavo. E così, di impeto, ho buttato giù delle parti di batteria sopra queste registrazioni e insomma alla fine sembra sia piaciuto, no? Certo, decisamente. Ivan, nella musica della band si arriva al pop, si passa per progressive, c'è la salsa, c'è la musica roots americana. Cosa ne pensi? Questo insieme di cose, come ti sei inserito in questo insieme di cose, visto che l'hai fondato? Ma per me suonare vuol dire innanzitutto ascoltare. Quindi il mio ruolo è quello, come mi vedo, è un po' il collante, cerco di l'equilibrio, cerco di far diffondere il resto assieme a tutti quanti, cerco di non, soprattutto di non far nulla che prevarichi gli altri, o che distragga dal mood. Cioè, semmai piuttosto preferisco fare qualcosa che possa sottolinearlo, esaltarlo. E comunque ci tengo a dire che è vero che siamo partiti, il nucleo è partito da voi tre, Stefano, Davide e poi me, però l'idea quasi inconscia, se vuoi, però l'idea era quella di fare questa cosa tutti assieme, perché fin dalla prima volta che abbiamo suonato assieme si è creato qualcosa che non ci capita spesso, che capita nella vita del musicista, però è molto rara. Nata una simbiosi, possiamo dire così. Sì, assolutamente, termine esatto. Noi comunichiamo quasi meglio suonando che parlando. Anche se fa quasi. Sì, anche perché anche quando parliamo... Prima è una cosa che vi devo chiedere, questa. Quando sono nati i pezzi dal vivo, c'è lo spazio, voi cinque, per qualche... trasgressione, cioè uno fa una solo un po' più avanti di basso, uno fa un rullato di batteria, il cantante, il chitarrista e te è lo stesso. Il problema è trovare lo spazio per dove non sempre si senza spaccare il pezzo, chiaramente. No, quella è la regola fondamentale. Prima di tutto il pezzo, quello che si vuole dire, il messaggio collettivo. Però la cosa bella è che una volta che questo è chiaro a tutti quanti, e lo è, abbiamo quasi carta bianca. Ecco, questo voglio dire, perché quando è arrivato Marco e parlava con me, abbiamo fatto questa considerazione. Dal vivo questi ragazzi allargano sicuramente il discorso, non lo deprimono, lo allargano, in senso positivo secondo me, ma vanno avanti, non c'è una interruzione. Sì, sì. Noi la pensiamo così. Dovreste venirci a vedere. Approfittiamo per fare un po' di pubblicità. Dai, vai, fai la pubblicità. A tutti gli amici ascoltatori, andate su www.elcuentodellacicailattechila.com. Sono sbagliato. Una bella cappella subito. E assicuratevi di partecipare alle prossime date. Le puoi citare le prossime date, le ricordi? Proprio non me le ricordo. Abbiamo al chiodo fisso, esatto. il 23 esattamente. Benissimo. Però in ogni caso fine trasmissione, lei ripetiamo così. Allora sono 22:37, a me e Marco piace molto il suono live, facciamo un altro pezzo dal vivo, dai, forse. Okay. Visto che avete 60 pezzi nel repertorio, questo non ci sono è problemi. Il pezzo di cui parlavamo prima è Della grigliata. Questo pezzo parla della grigliata, perfetto. Io non ancora. So bright, smiles might have walk away, walk away, walk away. All'ultima goccia, perché questa è la tradizione di Rock Wave, bellissima. Stare nella Fossa dei Leoni, cari ascoltatori, è una cosa meravigliosa, ti trascina. Grazie. Assolutamente, sei dentro, sei proprio dentro anche te, c'è poco da fare. A qualche centimetro dal chitarrista, dall'organista, dal cantante, dal batterista, dal bassista. Faccio parte della band anch'io stasera. No? Benvenuto. Grazie. È una cosa meravigliosa, secondo me. Bene, il pezzo molto bello, una bella ballad sta qua, possiamo dire che è una ballad un po' accentuata, che prende immediatamente, un po' accattivante, ma accattivante nel senso positivo del termine. Solare. Ecco, vai. Non dico estiva, non dico californiana, ma va bene lo stesso. Non tormentone, bello, positivo, dai. Assolutamente. Com'è stata l'idea di creare questo pezzo? Com'è nata? Dai. Allora, davvero... un po' un filo conduttore dei nostri pezzi sono un pochino le donne. Le donne sì, sono fondamentali nei vostri pezzi. Ma nel senso che comunque tutti noi, chi in un modo, chi in un altro, ognuno di noi ha avuto una donna che in qualche modo l'ha sfasato, gli ha cambiato un po' la vita. E questo è un elemento che c'è un pochino quando scriviamo i nostri pezzi. Punto di riferimento, possiamo dire questo. È un punto di riferimento. Quasi, Iva dice quasi punto di riferimento, quasi. Non per niente il nome della band, esatto. Il cuento della cica e la tequila, cioè il racconto, la leggenda della ragazza e la tequila, un po' rispecchia certo. Un po' questo nostro motivo. Il pezzo parla davvero della grigliata perfetta. Allora, cosa intendi per grigliata perfetta, allora, Davide? Magari il mito della grigliata perfetta. Il mito della grigliata perfetta. Allora, si tratta di questo. Non tutti sanno, ma i surfisti sì. Normalmente vivono alla ricerca di quella che loro chiamano l'onda perfetta. È vero. Che è un pochino un'utopia. Perché se ci pensiamo bene è un significato un po' strano. Noi siamo alla ricerca della grigliata perfetta. Che cosa consiste? Chiaramente non nella bracciola cotta perfettamente, ma è un pochino, parla di quel giorno in cui tutto funziona alla perfezione. In cui tutto funziona bene, in cui c'è il sole, e nel pezzo si parla di... ci sono un pochino queste immagini di bambini che giocano con le nuvole, più che, non lo so, il fatto che guardi una ragazza che ti piace e lei ti scambia lo sguardo giusto al momento giusto. E in realtà è un po' questo. Ma è un'utopia che piace questa? Un'utopia che piace? Secondo me sì. Ma sì. Ma bisogna trovare, bisogna cercare di arrivare anche a qualcosa che piace al 100%. Ma sì, ma poi i musicisti sono dei sognatori. Certamente. Per cui sono prevalentemente dei sognatori. Ha poca importanza se... mai si arriverà al giorno perfetto. Adesso, a parte la grigliata, è sempre come un buon pretesto per sempre... fare grigliate su grigliate di prova, no? Esatto. La voce della ragione. Questa è una grigliata di sostanza, però. Sono io, sto avendo un po' di fame. Di sostanza. E musicalmente, come è stato ideato il pezzo musicalmente? Chi l'ha scritto? Avete scritto tutto assieme oppure? No, l'ho scritto io e Davide. Tu e Davide. In realtà devo dire che questo pezzo l'abbiamo scritto in 10 minuti. Ah, velocissimi. Ti parlo di cos'era? Sarà stato un 2005. C'è tanto che ce l'abbiamo. In una sala prove in cui eravamo lì a fare una prova con il gruppo che avevamo, ed eravamo proprio seduti per terra sul tappeto, e tra l'altro abbiamo anche le foto di quel momento, perché bello. Ci hanno scattato una foto, e il pezzo è venuto veramente in 10 minuti, cioè strofa ritornello e poi l'arrangiamento, no, chiaramente era tutto, tutte le parti, insomma l'assolo di pianoforte è stato studiato appunto con chiaro, Ivan, con Iva, ragazzi, certo. Però sì, sì, no, cioè afferma, sì, sì, ha detto di sì anche lui, sì. È una cosa, voi siete turnisti, avete suonato con parecchia gente, qua ho letto, a me interessa molto Marvin Edizioni, che è un musicista straordinario americano, ha prodotto un sacco di gente, gli stessi Counting Crows, dimmi. Con lui abbiamo fatto un disco di Sergio Borsato che non è che non mi risulta essere uscito. Ancora uscito. Ed è praticamente era il secondo che facevamo. Andrea Valfre, che è il fonico e un po' il sesto di noi, sesto componente della band, esatto, praticamente. Aveva avuto occasione di conoscerlo, mi pare, forse anche di lavorarci assieme, e l'ha visto come la persona perfetta per il disco successivo di Sergio, il primo produttore. È stata un'esperienza fonte di un sacco di aneddoti, Io incredibile. Potrebbe stare 3 giorni a parlare con lui, sì, anche perché è un personaggio. No, vabbè, forse no, non puoi citarlo. Non puoi citarlo. È stata veramente un'esperienza molto bella, proprio perché noi, comunque, diciamo, siamo tutti più o meno coetanei, insomma, dai più o meno dai 26-27 ai 38, 40 al massimo. Abbiamo un range di una decina d'anni, capito? Mia come me, ne ho molti di più come range. Decisamente molti di più. Vabbè, siamo persi. Marvin non lo so, penso che comunque sia degli anni 60, insomma, che classe classe 57. Quindi ha vissuto, diciamo, tutto il periodo della produzione dei dischi, quelli veri, quelli grossi. Quelli veri, sì. Lui ha lavorato con Phil Spector, cioè, quindi... Ha lavorato con Dylan. Aveva un gruppo. E vedere lavorare lui, cioè, lui è uno di quelli, per esempio, che al contrario di quella che è la produzione attuale, lui non guarda il monitor, lui mixa al volo con le cuffie e con le casse senza guardare il monitor, cioè lui non vuole guardare, non ha nel concetto di mixaggio di lavoro l'aspetto visivo, lui lavora proprio come lavoravano quelli. Lavoravano 40 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa. Non ha neanche il concetto dell'orario da rispettare all'interno di una sessione. Cioè, cosa vuol nel dire? Nel senso, invece di avere un'idea di preproduzione, un concetto di stesura del brano, un concetto di arrangiamento, quello che fa Marvin è suoniamo finché non arriva la scintilla. Ho capito. E lui è uno di quelli che ti riescono a portare verso una direzione, anche se tu sei dalla parte opposta dell'oceano. Cioè riesce a avere queste qualità. Insomma. Sì. Beh, personalmente, penso per tutti noi, è stata un'esperienza straordinaria da fare assieme. Poi ti mette, spesso adotta come scamotage per darti lo stimolo. Spunto, ti mette non ti mette in condizione di suonare. Tipo, il primo pezzo che abbiamo fatto, eravamo tutti in questa sala, senza cuffie, e suonavamo pianissimo, per cui non ci sentivamo. Ho capito. E se uno suonava un pelino troppo forte, spariva tutto il resto. Se suonava più piano, non si sentiva, per cui era doveva essere questa atmosfera. Questa alchimia, chiaramente. Quindi il discorso che ha fatto Marvin praticamente è rapportato anche praticamente nel modo di fare da parte vostra. Ci sono degli elementi. Ci sono gli elementi che vi ha dato una spinta. Per penso che tutti noi abbiamo chi magari più consciamente, chi inconsciamente ha assimilato proprio. Esatto, volevo proprio dire questo. Di essere. Poi tra l'altro c'è comunque è proprio una persona che anche dal punto di vista umano, cioè ti ha un'aura, un'energia, sì, ti trasmette. Sì, sì. È una vera e propria rockstar, cioè ha dato fuoco alla camera d'albergo dove stava. No, cioè, quello abbiamo fatto insieme. Esatto, cioè, una vera rockstar proprio. Cioè. Sì, sono la reception dell'albergo, è arrivata una telefonata veramente così. Il signor Azioni fa delle cose strane con degli asciugamani che ho trovato bruciati. È stato un momento un po' imbarazzante. Ma è incredibile. Ma bellissimo. No, no, dal punto di vista artistico, un gran produttore, sì, e anzi siamo, ci riteniamo penso tutti fortunati, perché sì, ho avuto l'onore di poter lavorare con un mostro insomma della musica così, insomma, quindi ringraziamo. Certamente. 22:50, adesso facciamo un pezzo da disco, chiaramente. Che traccia avete scelto, vi ricordate? Allora, abbiamo scelto il primo pezzo del disco. Che cioè apre il disco. La traccia numero uno, che apre il disco. Che è molto... che dà anche il nome. È piaciuto moltissimo ai critici, giustamente. È un pezzo molto bello, molto roots, secondo me, molto forte. Ma è un pezzo, sì, anche quello... È un pezzo da strada, sì. Ha ragione Davide. Un pezzo piccolo lì è nato anche quello in 10 minuti, non di più. Proprio eravamo carichi giusti. Eravamo sì, tre anni fa proprio. È nato tre anni fa, è nato, sì. Uh-huh. A casa mia, ma proprio davanti a una birra abbiamo detto: ah, senti che bello questo qui. E niente, da lì proprio sono nate. È nato il ritornello che certo, di Davide. Io ho detto: assolutamente dobbiamo scrivere dentro qualcosa. Ma in 10 minuti ho scritto le due strofe, poi l'abbiamo suonato. Sì. Poi è arrangiato chiaramente. Certo, certo, ma è venuto benissimo. Sempre. Comunque, allora, questa è First Ale, che è il primo pezzo del disco First Ale, del Cuento della Cinca e la Tequila. Buon ascolto. Rock Wave, Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. She's learning the scorpion dance. Tequila, she said, tell me where is the man I'm searching for. Tequila, she had, and the heaven became just like a desolate shore. The money and the fame couldn't take him away from his face. She was sitting beside his head, broke the fear to live. Tequila, she said, 'cause the desert was waiting for a soul. Close your eyes. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua, io voglio sapere una cosa da questo pezzo. Innanzitutto è un pezzo che ha un finale sempre potente, si allarga a dismisura. Poi queste chitarre, questa voce del vocalist molto arrabbiata, questa chitarra incredibile, quasi di metallo, quasi un rock duro, assolutamente. Come mai questa idea di un finale così potente? Quasi una jam session. Ma diciamo che è il pezzo... E trascinante, doveva aprire il disco, chiaramente doveva essere così. È il pezzo un po', cioè è un po' il nostro... diciamo il nostro cavallo di battaglia, no? Hai capito? Okay. È quello che più forse più ci identifica. Il nostro biglietto da visita. È il vostro biglietto da visita. Sì, cioè, vi fa muovere la gente che è là quando vi vede, o sì, no? Sì, ma sì, esattamente. Ma cosa vuoi? Anche lì è strano, cioè è difficile dare giudizi ai pezzi. Quando, quando vengono, quando senti la magia, la senti. Come poi, non so, sarebbe come... Non volevo dire come giudicare tipo Star Way to Heaven, sì, cioè, sì, chiaro, chiaro. Per penso lì no, è troppo. Ma posso chiedervi in che punto della scaletta è predisposto questo pezzo? Lo spostiamo, non ha un punto, non ha preciso. Un punto preciso, però di solito comunque è verso la metà. Verso la metà, per dare un'ulteriore spinta alla gente che vi ascolta. Anche perché bisogna essere belli caldi per fare questo pezzo. Bisogna essere belli caldi. Che non so come sono riuscito a farla, non li farò. Come hai detto? Ripeti quella frase che hai detto? Hai detto una frase importante adesso? Come hai fatto questo pezzo? Con la chitarra? Devo farla 32esimo. Al 32esimo hai parlato del 32esimo. Sì. Cioè cosa vuol dire praticamente? Tipo così? Ecco. Esatto. Ho capito. È stato difficile? No, non sono 32esimi, sono 16esimi, però beh, difficile. Fammi un momento, te. Beh. Addio, cioè. Ecco, abbiamo capito. Tutto dal vivo, 22:50, è tutto dal vivo. Adesso siamo arrivati al momento topico. Che arrivano i musicisti veri. Siete assolutamente musicisti veri. Siamo al solito momento del giochetto, i tre dischi da portare su un'isola deserta. La regola fondamentale, Marco lo sa, lo sono molti nostri ascoltatori, non si può copiare. Chi inizia del giro? Io. Vai, il nostro cantante. La cultura discografica. Allora, io ne porto un doppio live. Davide, cosa porto? Un doppio live di chi? Allora, porto Live at Donington degli AC/DC. Ah, come mai loro? Beh, devo dire che è un disco che io ogni volta che ascolto, c'è anche in versione, c'è anche il video, sì, di questo doppio album. È incredibile, io non so, lo trovo davvero un concerto suonato in una maniera incredibile. Ma è incredibile anche lui che si veste sempre così dopo tanti anni, sempre quel calzoncini corti, anche lui, sì. Esatto. Sì, ma è tutto, cioè una band, hanno un pubblico, poi c'è Donington, sommersa di gente, quindi questo è il primo disco e poi porterei Bad di Michael Jackson. E come mai Bad di Michael Jackson, questa scelta praticamente? Perché, al di là del fatto che farei anche un po' fatica a scegliere quale disco di Michael Jackson, ma è un artista che ha fatto molto da guida. Un po', anche i rockettari, secondo te? Moltissimo. Sì. Moltissimo. In che senso? In che modo? Come gli arrangiamenti, anche se gli arrangiamenti di faceva... Allora, come prima cosa, cantante incredibile. Cantante bravissimo. Cantante davvero incredibile, con una voce inimitabile che non avrà mai più nessuno. Questa è la prima cosa. Pezzi stupendi. Che riuscivano... Pierfiore di Quincy Jones che gli arrangiava, però. Tra l'altro. Che hanno... ci sono delle chicche, i musicisti le sanno, tipo il solo di Beat It. Che ha fatto Van Halen. Sì. La stessa Dirty Diana, no? Sì. Che abbiamo nel disco, il solo l'ha fatto Steve Stevens. Quindi certo. Esattamente. Di Billy Idol. Se non sbaglio, la ritmica di Billy Idol è Steve Lukather. Sì, esattamente. Sì. Cioè, sì. Quindi gente... Però no, su Bad ci sono metà dei Toto. Sì. Su Thriller ci sono sui Toto. Ecco. Quindi gente assolutamente di non valore. Sì, esattamente. Sì. Scartine praticamente. Sì. Perché per me è l'esempio di come fare un disco suonato benissimo. con dei gran contenuti musicali, ma assolutamente popolare. Ma quando è uscito Bad, qualcuno ha scritto: non è thriller, non è thriller. E qualcuno ha tirato il naso. Cioè... Sì, beh, ma questo è un po' il problema di chi vorrebbe che... Fa 110 milioni col primo album e dopo cosa ne fa? Sì, beh, ma questo è un po' il problema di chi pensa che gli artisti debbano fare tutta la vita la cosa con cui sono diventati famosi. Mm. Lo stesso concetto. Insomma, avranno anche loro le loro esigenze. Certo, anche certo. I big avranno le esigenze di fare qualcosa di diverso. Certo. Il terzo? No, io me la sono cavata con un doppio. Ah, è vero, hai ragione. Sono già a tre. Marco, non mi sono accorto, vedi? C'è poco da fare. Tocca a te. Furbo, eh? Davide ha giocato su questo. Ciao, beh, la scelta è difficile. Dimmi. Anche perché i dischi sono veramente tantissimi. Sta parlando il cantante, è Stefano, eh? Com'è? Okay. Sta parlando il chitarrista Stefano, dai. Chitarrista. Beh, allora, chitarristicamente parlando, dai. Quindi, cioè, visto che sono un chitarrista sfigato come... Allora, porterei come primo disco Appetite for Destruction dei Guns N' Roses. Cosa ne dici, Marco, di questo? Marco annuisce. Che è il disco un po' con cui io ho capito che avrei fatto quel genere. Esattamente. Ti ha colpito assolutamente. Ma guarda, penso che ne ho comprati 5, consumati, rotti, regalati, cioè rubati, chiaramente. quello è un disco al quale sono veramente molto affezionato. Adesso, cosa vuoi, sono anche, avendo anche insomma, superato un po' quegli anni, quella fase lì, magari non lo ascolto più come una volta e non lo... magari non lo interpreterei più anche come una volta, però sicuramente è il disco che mi ha cambiato. Poi l'impatto dal vivo dei Guns N' Roses era straripante. E poi penso che porterei il Greatest Hits 2 dei Queen, secondo quello che hanno fatto nel 93-94, che pur non essendo un album, ma essendo comunque una raccolta, un best of, racchiude in sé tutto quello, racchiude in sé molti aspetti che per me sono, che anche quelli mi hanno segnato moltissimo. Il rapporto per esempio con il cinema, là ci sono 3 o 4 pezzi della colonna sonora di Highlander, che è stato uno dei film che mi ha fatto capire anche lì che io avrei lavorato un po' in questo mondo, in questo ambito qua, insomma, per non parlare di pezzi come L'Innuendo, da cui ho capito che avrei fatto un po' di flamenco nella mia vita, prima o poi l'avrei fatto, fino ad arrivare a Shamas Gone, insomma, quelle che sono un po' le... ecco, sicuramente molte persone diranno i Queen di quel periodo non sono i Queen di Bohemian Rhapsody, di Fat Bottom Girls e così, però neanche i Queen del primo periodo, neanche i Queen del primo periodo, quei rocchettari forti, o anche quelli esattamente, quelli proprio precedenti, esattamente. Però è un, diciamo che sono pezzi che mi hanno da The Works in poi, insomma, mi hanno molto molto segnato. E poi come terzo disco... disco di Albano, no? Albano e Romina. Avrei detto Gigi D'Alessio, ma non saprei. Con la Bertè, sì. No, il terzo disco sarei molto indeciso, però penso che sceglierei la colonna sonora di Pulp Fiction. Perché quello... Ma qui c'è un motivo! C'è un motivo! Motivo non solo per... Legato al regista, no. Per il regista, esatto. No, Quentin Tarantino... E anche un po' tutti i suoi, diciamo, i suoi discepoli, che sono stati Robert Rodriguez, Eli Roth e vari, insomma, vari registi che io reputo registi straordinari. Però al di là di quello, c'è comunque in quel disco c'è una punta di Tex-Mex, una punta di rockabilly, c'è una punta di soul, c'è una punta di anche di ironia e autoironia, che ogni tanto fa molto bene. Cioè, a me, io sento che quel disco lì, quando lo metto su, mi fa bene. Mi fa, se posso permettermi, chiedo scusa, mi fa mandare a fanculo il mondo, mandare a fanculo i problemi. E mi fa proprio... bevo una birra, faccio un sorriso e il giorno dopo lavoro più felice. Benissimo. Il nostro batterista, vai. Devi avvicinarti leggermente. Sì, ok. Allora, bene. Io partirei subito. Benissimo, ok. Sei pure là. Uno dei... a scelta, per voi, uno dei dischi di Led Zeppelin, che sono stati il mio primo vero amore... Dove, come per Stefano... Perché c'era Bonzo, perché c'era Bonzo. Sì. Bonzo è Bonzo, c'è poco da fare. Quattro colpi e via. Creava un groove come di cui si parlava prima. Poi gli era venuto uno. è purtroppo quello, è un altro partimaniche. di... E lì non saprei veramente scegliere quale disco. Dei primi quattro, dicevi? Sì, sì, sì. Fondamentali proprio per la mia crescita, sia dal punto di vista... Vediamo Marco cosa avrebbe scelto. Marco, dei quattro dei LED, cosa avresti scelto? Due? Il primo. Marco dice il primo. Vabbè. Vabbè, ok. Comunque sono quattro album fondamentali. C'è tanto da dire, però. Certo. Poi, il secondo disco è stato il primo vero e proprio disco che abbiamo acquistato io e mio fratello, sì, che tra l'altro è un musicista, suona il basso, e da cui ho imparato veramente molto. Eccolo là, il basso. Era suo, tra parentesi. Per quello hai mostrato. Ringraziamo. È stato Evie Weather, un disco di Weather Report, che... praticamente avevamo il disco senza avere... Com'è la scelta? Una scelta come Weather Report, che è un gruppo decisamente un po' ancorato dal rock, passato al jazz anche di un certo tipo. È stato un crescendo, proprio a livello culturale. Molto raffinato come band. È stato il periodo in cui ho iniziato ad andare a scuola di batteria. Ho iniziato ad aprire un po' di più quella che era il mio orizzonte musicale. Certo. E quello è stato proprio uno schiaffone in faccia. Cioè, mi ha fatto girare veramente la faccia e mi ha fatto ascoltare qualcosa di diverso. Certo, certo. Il terzo disco invece è Crash di Dave Matthews Band. Ah, beh, Dave Matthews Band. E lì, cioè, una macchina da guerra, i Dave Matthews Band. Veramente una macchina da guerra. Nel 96 lavoravo in un negozio di strumenti musicali e è arrivato un amico che mi ha portato questo disco e fa: ascolta questa band. E lì c'è stata proprio la folgorazione, l'ennesimo schiaffone in faccia che mi ha fatto girare la faccia da un'altra parte e l'ascolto appunto da un'altra parte, ed è stato veramente un altro punto di partenza. Quanti volte l'hai visto qualche volta? L'ho visti qui a Padova due anni fa, sì, che sono venuti. È stata per me la prima volta, li aspettavo da una vita e finalmente ci sei riuscito. Una band che ha un sacco di live, ha fatto un sacco di live, tipo i Grateful Dead di una volta praticamente. E si vede tutto, perché poi quando suonano dal vivo. Cioè, trasmettono una carica che arriva da ogni singolo musicista e ti pervade. Cioè, è incredibile. Certo. Anche lì tutto con strumenti acustici. Sì, ciao, è vero. A tutti quanti. È vero. Sì. Non ci sono distorsori che ti salvano le chiappe. Benissimo, tu che è il nostro bassista, ok? Ci sei? Allora, comincerei con vai. Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band dei Beatles. Ah, come mai hai scelto la Bibbia del rock, secondo alcuni, secondo altri no? Allora, è stata difficile scegliere tra questo e il doppio raccordo 67-70, però sceglierei questo. Perché quella blu è, ricordate? Blu, esattamente. Quella blu rossa doppio, e quella blu. Esattamente, esatto. Esattamente, il famoso doppio blu. Diciamo che Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band rappresenta, secondo me, un punto di svolta dal punto di vista della produzione della musica pop e rock moderna. Perché non dal punto di vista dell'innovazione, ma dal punto di vista della... del cambio proprio reale di intenzione. Ho capito. Non perché non l'avessero fatto prima qualcun altro, anzi l'avevano fatto, molte delle idee che avevano preso, che ci sono presenti in quell'album là, c'erano i Pet Shop in Revolver, Rubber Soul, stavo dicendo Pet Sounds dei Beach Boys, che è dell'anno prima, sì, esattamente, e al quale si sono rifatti molto, sì, ci sono sempre però, detto l'idea, la strutturazione di un album e il modo di costruire le canzoni in quel modo là, allargando alla parte orchestrale, allargando all'esperimentazione un po' lisergica, diciamo che ha creato un punto giusto. Un punto giusto, e poi perché adoro i Beatles, chiaramente, sì. Qualcuno ha detto che anche a Revolver e Rubber Soul avevano dato un certo che alle cose. Sì, sì, sì, però erano ancora legati alla formula della canzonetta. Sono d'accordo con te, sì. E in Sgt. Pepper's c'è una grande sequenza musicale. È una sorta di concetto musicale che viene. Poi nell'album bianco è stato, esattamente, è stato allargato al massimo. Sì, è stato allargato al massimo, però si è anche più frammentato. Sì, beh, chiaramente, essendo doppio, aveva questo. Sergio Peppe si è molto coeso. Certo, certo. Poi un altro disco. È difficile queste domande. Lo so, sono tre domande, sono tre solamente tre. E lo so. Un altro disco. Iva sta prendendo nota. Okay. Gli appunti. Ma tanto non si può copiare, quindi sei tutto. Tra l'altro, i tre dischi che ho pensato sono i tre dischi che contengono, diciamo, i bassisti che mi piacciono di più. Guarda, Paul è uno. Paul è uno di sicuro, dal punto di vista proprio della musicalità, della funzionalità del basso all'interno, certo, del pezzo. Un altro disco che è un po', penso, sconosciuto è Three Friends dei Gentle Giant. Cosa ne dici, Marco? Noi lo conosciamo sicuramente, lui annuisce anche. Io sono. Come mai Gentle Giant? Fondamentalmente perché sono cresciuto in una famiglia che ascoltava molto prog, molta prog, musica inglese degli anni 70. Devo molta della. Diciamo, interesse alla musica soprattutto a mio padre, a mia madre, mio zio. Sono cresciuto in una diciamo famiglia che ascoltava molti dischi e molta musica. E bello positivo questo motivo. Sì, sì, sì, sì. Poi prog ancora più positivo secondo me. E Three Friends perché è un disco di un gruppo che secondo me è stato un po' diciamo sottovalutato nella storia. E contiene delle idee musicali, degli sviluppi musicali, ritmici, melodici, armonici e concettuali che sono veramente notevoli. Erano bravissimi. Sì, sì, erano grandissimi musicisti e secondo me un po' giustamente sottovalutati. E poi io adoro Raymond Schulman, che è il bassista, certo, violinista della band, cantante, polistrumentista, trombettista, percussionista, un po' di tutto. Ed è uno dei miei riferimenti sonori ed è a cavallo tra il concetto diciamo musicale tra il precedente bassista e quello che andrò a dire dopo che è il signor diciamo Stuart Zander, che è il bassista di Jamiroquai, che comunque è molto post diciamo, sì, che però si è rifatto ai canoni precedenti esattamente. E direi The Return of the Space Cowboy. Ah. Che sono indeciso tra The Emergency e Planet Earth e Return of the Space Cowboy. Sono molto indeciso. Già meno qui ti sono piaciuto. Prendo il nuovo cartonato doppio, me li porto tutti e due. Perfetto. Perfetto. Ok. Esattamente. Adesso tocca a te, Ivan. Allora, a me hanno complicato un po' le cose scegliendo dei ti hanno praticamente preso però tutti i me le facilito da solo perché ce ne sarebbero tanti ma ne ricordo pochissimi perché ho una cattivissima memoria. Quindi, anzi di uno non ricordo neppure il titolo. Comunque il primo, per lo stesso motivo per cui gli altri hanno citato altri dischi, è Toto for dei Toto, perché sono qui per colpa loro. Ah. E lo ribadisco. Beh, una bella colpa, dai. Sì, mi hanno stregato, ma non per un discorso tecnico che semplicemente ricordo precisamente il momento in cui ascoltavo questo disco, che forse è il primo che ho comprato, e sentivo tutte queste emozioni arrivare dalla musica e in quel momento ho deciso che anch'io volevo avere questo potere, volevo poter fare qualcosa che innescasse questo tipo di emozioni. Certo. Non sapevo in cosa mi infilavo, però. Beh, poi hai scelto le tastiere praticamente. Sì, sì. Anche se non è stato un po' per caso. Come secondo disco, Recovering the Satellite dei Counting Crows. Eh beh, quello è un grande disco, io e Marco siamo perfettamente d'accordo, un grande album. Abbiamo sempre amato qui a Rockwave i Counting Crows, abbiamo trasmessi un sacco di volte, bravi, perché è giusto che sia così. Sì, sia per come scrivono i pezzi, sia per gli approcci che hanno, il modo in cui registrano i dischi. Anche lì è un discorso di pelle. Possiamo dire questo. Come alla fine la maggior parte delle mie scelte in campo musicale. E come terzo sono indecisissimo perché se ne sarebbero talmente tanti. Comunque sono indeciso, Dr. John, però non ricordo assolutamente il disco. So che è un una specie di tributo a New Orleans che inizia con un pezzo vocale che è un canto come si dice, quelli che si cantano al funerale. Sì, i funerali, sì. Quindi, perché non mi sono mai stancato di ascoltarlo ed è quindi immerso nel blues praticamente o sì quasi. Ma in realtà poi mi avete costretto a lasciare fuori il jazz, la fusion, il funk, cioè non può, tre sono tre dischi sono pochi, lo so, ma per mie esigenze, perché a me, noi di Rockaway, me e Marco, piace una cosa: far sentire la musica della band. Poi voi avete una musicalità potentissima e le 23:16 abbiamo tanto tempo fino alle 24 da far sentire tutto quello che volete. Che cosa adesso? Assolutamente. Allora, adesso vi facciamo sentire un pezzo che si chiama Superstar Suicide. E Davide ci spiega. Dai, Davide ce lo spiega. Il senso. Allora, rende bene l'idea di cui ha parlato Ivan. Quando ho parlato del disco dei Toto, che è per colpa loro, ognuno dà la colpa, tra virgolette, per cui si fa questo mestiere. Per anni, quando si è ragazzi e si guardano i big, una volta era un po' diverso l'ambiente discografico, adesso i cantanti, le band devono mandare fuori il singolo un mese prima per vedere se piace, dopo esce il disco. Una volta, se usciva il disco dei Pink Floyd, nessuno ha portato un disco dei Pink Floyd. No, è vero? No, nessuno l'ha citato, esatto. Ne avanzi uno. Sì, perché è uscito un doppio, te. Dark Side mutuato. Dark Side. Ecco. Una volta si aspettava che uscisse il disco. Il disco, proprio il vinile, si aspettava una volta. Esatto. Si apriva in una certa maniera, aveva un certo... c'era un certo rito, vero Marco? Era così e noi abbiamo una certa età. I vinili sono ritornati, però il fascino non muore mai. Gli allievi nelle chiavette USB ci scaricano. Ma quello è un'altra cosa. Lo so, ma quello è un'altra cosa. È un'altra cosa. Il disco, ma si rompe subito. Allora dimmi, Davide. Sono quelli alle prime armi. E queste superstar erano un pochino delle figure intoccabili, di cui un mito si là. Leggevano le leggende di che cosa facevano della loro vita e quant'altro. E io credo, come tantissimi musicisti, un po' mi mettevo nei panni di come potesse essere fare una rockstar. In realtà senza saperlo, veramente. Non ancora. Non ancora. No. E ancora... Non ancora. E diciamo che più o meno il pezzo parla un po' di questo. Perfetto. Ma soprattutto per il fatto che comunque la un po' il senso del pezzo è che non tutto quello che scintilla è vero. È vero. Cioè, in realtà, soprattutto al giorno d'oggi, fare il musicista è un lavoro. Certo, c'è poco da fare. Un lavoro che ha tantissime soddisfazioni perché abbiamo la fortuna di fare il lavoro più bello del mondo. Però tanta fatica, lavoro, però. È un lavoro, uno fa fatica e comunque alla fine uno fa comunque anche lì conti a fine mese. Certo, è chiaro. Ed è veramente un lavoro che richiede tantissima passione, richiede moltissima dedizione e richiede soprattutto, secondo me, moltissima professionalità. Al contrario di quello che si può pensare, che la rockstar è il cagone, il cazzone che si droga e fa i casini, non è più così. Cioè, una volta forse poteva essere così, adesso ti buttano fuori nel giro di 3 secondi. Certo. Tale of a golden lizard, oh. Quinteto della Chica, i La Tequila Rockway, bravissimi, tutto dal vivo 23-24, un pezzo un po' di bossa nova, un po' di Sud America, o no? Pizzichino all'inizio, poi no, le cose sono cambiate perché Iva ha fatto un giretto alla prog, secondo me, in questo momento. Ma vai. Sì, beh, la musica sudamericana ha comunque, sudamericana, quindi diciamo un po' tutti quanti, i groove. Vi ha contagiato. Ci ha tantissimo contagiati, vedi, samba, bossa nova. Certo. Moltissimo anche ritmi più tipo begin, sì, tipo, perché il disco è cosparso di queste cose, anche la rumba, sì, stessa, anche la rumba, certo, comunque, certo, sia la rumba catalana che la rumba comunque quella diciamo tradizionale, e tanto quanto anche il tango, per esempio, noi abbiamo diversi arrangiamenti su altri cover che facciamo, in chiave magari, non so, tango argentino piuttosto che come siete riusciti a mediare tutto quante le cose? Nel senso positivo, non pensandoci più di tanto. Ah, cioè, non pensandoci più di tanto. Ci sono dei punti in cui facciamo, facciamo tre giorni, cioè ognuno di noi fa un genere diverso. Infatti, abbiamo preparato anche una sorpresa per voi. Bene, sera. bene. Benissimo. Cosa mi sta guardando? No, ma il discorso, per esempio, tu alla fine, ripeto, hai attaccato un momento che era progress, praticamente non era, cioè era un po' levato via dal discorso, e poi il discorso è ritornato immediatamente. In realtà poi non è che ragioniamo in, almeno io parlo per me, ma so che vale un po' per tutti, ragioniamo in compartimenti stagni, in termini di genere, semplicemente in cosa ci starebbe bene o cosa voglio dire qui o cosa vogliamo dire qui, quindi è così che succede. Io non, per esempio, non l'avevo mai considerato prog, adesso che me l'hai detto. Sì, io ho pensato questo, chiaramente, forse è un inizio, un pizzico. Poi sì, sì, ma hai ragione. Io non avevo mai fatto questo collegamento, come ci hanno detto altre cose, e siamo un po' cascati dalle nuvole. Infatti, però in realtà è vero. Infatti, purtroppo, cioè, ne parlavamo giusto proprio l'altro giorno io e Davide, sì, che quanto da un certo punto di vista sia un grosso limite identificare gruppi, dischi, musica in generale per generi. Lo so, questo, cioè, è vero. Questa è una cosa che da un certo punto di vista è da fastidio, molto, forse, molto limitante, soprattutto anche nel caso nostro, che quando ci chiedono che genere fate, saperlo. Come facciamo a sapere che genere facciamo? Passiamo proprio dal, come hai sentito anche tu, non so, da un po', certo, dalla samba, dalla bossa, sì, un po' di tutto. Passiamo a magari parti più flamenche, tanto quanto possiamo passare al country, certo, o però, blues. Vedi, Stefano, però cioè, se tu dici che genere fai, dà un vantaggio, cioè dà una specie di all'etichetta, esattamente, oltre a dare vantaggio all'etichetta, dà una possibilità di cercare di capire poi le cose. Ma secondo me invece è proprio sbagliato è proprio, secondo me, però è una mia idea, cioè quando mi dicono ascoltati sto gruppo, cioè, io l'ultima roba che penso è che genere fanno. Ma un recensore ha bisogno della guida, hai capito? Sì, no, serve ovviamente sapere, poter identificare il genere è utile. Parliamo di brutal death metal, d'accordo. Sì. Però, cioè, sì, ho capito. È chiaro che, insomma, quando se io ascolto volentieri Paco de Lucía, tanto quanto ascolto volentieri Michael Jackson, come è stato citato prima, sì, tanto quanto posso ascoltare volentieri Meshuggah, per dirti. A proposito di questo, l'altro giorno Marco ha messo su in trasmissione venerdì un duo chitarristico, vero Marco, che adesso in classifica in tutto il mondo, compreso gli Stati Uniti, e non dico che era, sì, non è Paco di Lucía, assolutamente no, però c'è qualcosa che porta a quelle sonorità praticamente, e adesso in classifica in America. Non è che sia, cioè, stranamente in classifica in America su certe cose, anche non solo prima in America, Lady Gaga. Dimmi. Prima o dopo? No, Lady Gaga se n'è andata dalla classifica, cioè non è neanche nei primi, è solo l'ottantesimo questa settimana. Davvero? Di Gaga. È andata giù, sì, è andata Champagne. Giù. È andata giù. Cioè, no, il disco nuovo che Lady Gaga non ha venduto rispetto al disco precedente, ha venduto molto meno. Perché? Perché c'era Adele ha venduto tantissimo in America. Ma Adele è un grande disco. Sì, poco, sì, da, sì, fare, sì, ed è un disco interessante, sì, perché dopo ha fatto 19 al disco precedente, 21 quello che è uscito da un anno, che è sempre in classifica in tutto il mondo, è un disco fatto bene, però dice anche qualcosa, cioè, esattamente, dice qualcosa più back to the roots rispetto, sì, a altri prodotti, cioè, fatto bene in ogni caso, è giusto che l'esplosione sua è merita, dimmi, è una bella, sì, è una bella, è una musicista che sa fare il fatto suo, assolutamente. Ma in realtà chiunque porti migliaia e migliaia di persone in un palazzetto, in uno stadio, a saltare, vuol dire che ha qualcosa. Certo, sono d'accordo con te. Bellissimo. Sicuramente. Giusto, giusto. Questa è una cosa giusta. Sono pochi i casi di, per quanto uno possa, un prodotto possa essere poco interessante dal punto di vista artistico, in realtà non sono poi così tanti i casi in cui l'artista non ha veramente nulla da dire o non ha un senso per essere lì. Ci sono, però sono molto meno di quelli che sembra. Sì, certo, certo. A proposito, parlando di Lady Gaga, io non l'ho mai vista, però dicono che dal vivo sia tutta un'altra cosa, al di là dei dischi. Sia molto brava anche come pianista, soprattutto. Sicuramente è una... Cioè, anche lei sicuramente per essere dov'è, cioè, è chiaro che non è che può essere una scaglia. Certo. Parliamoci chiaramente, lei comunque... magari non avrà questa gran voce come Adele, non avrà sicuramente un dei gran pezzi così, però cioè, secondo me è molto più credibile di Madonna che cerca di imitarla adesso. Adesso sì, perché praticamente adesso sì una volta sì. Madonna era il fulcro di tutto, adesso il discorso è cambiato. Sì, no, vabbè, quindi assolutamente, no, con tutto il rispetto parlando sì. Per Lady Gaga che certo, anzi certo. Salutiamo, vai Lady. Ciao Gaga. Benissimo, 23:31, non so se ci sia in scaletta ancora un pezzo da disco oppure no. Sì. Ce ne sono altri 12-13. No, da suonare. Da far sentire. Da far sentire. Uno volentieri. Cioè, noi però... vorremmo farvi sentire. Che traccia hai scelto, ti ricordi? Sì, certo, la traccia numero 4. Traccia numero 4 è un pezzo. Una cover, è l'unica cover del disco che è Dirty Diana, è un pezzo che è stato un pezzo appunto di Michael Jackson tratto dall'album Bad. Sì. E è un pezzo che noi abbiamo riarrangiato un po' alla vostra maniera. E diciamo, noi l'abbiamo fatto prima della morte di Michael Jackson. E alla fine abbiamo scelto appunto, cioè l'abbiamo riarrangiato prima e l'abbiamo comunque registrato prima. E poi abbiamo comunque scelto di tenerlo nel disco, sia perché è un pezzo che tocca moltissimo le nostre corde, vedi proprio l'aspetto della donna, e vedi in questo caso l'aspetto di una donna che ti stravolge la vita e te la fa andare a picco, hai capito? Come certo, capito. Sicuramente capita a, poi è capitato a un po' a tutti quanti di trovare una persona così. E poi soprattutto per il fatto che è, diciamo, l'abbiamo ritenuto un tributo a uno dei più grandi artisti che abbiamo avuto nella storia della musica. Quindi, cari amici ascoltatori, ecco voi Jerry Diana, il quento della cicca di latte chiuso. Conduce il maestro. Vestiglio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Make me stay, so take you with of me. I know your every move, so won't you just let me be. I've been here times before, but I was too blind to see that you seduce every man. This time you won't seduce me. She sings, that's okay. Hey baby, do what you please. I had the stuff that you want and the thing that you need. She looked me deep in the eye. She starts to me so to start. She says, no turning back. She told me in her heart, dirty Diane, dirty Diane, dirty Diane, dirty Diane. Now let me be. She likes the boys in the band. She knows where they come to town. Every musician's fame, her dirty curtain comes down. She waits backstage doors for those who have prestige, who promise fortune and fame, a life that's so carefree. She says, that's okay. Hey baby, do what you want. I'll be your not-loving thing. I'll be the freak you can't talk. And I don't care what you say. I wanna go to the fuck. I'll be your everything. Dirty Diane, said I had to go home, cause I am real tired, see. But I hate sleeping alone, why don't you come with me? I said my baby's at home, she's probably worried tonight. I didn't call on the phone to say that I'm alright. Diana walked out of me, she said I'm all yours tonight. I then I ran to the phone, saying baby I'm alright. I said that I unlocked the door, because I forgot a key. She said there's no coming back, because I'm sleeping with me. Dirty night. L'onda del rock. Eccoci qua, abbiamo sentito questo pezzo, allora lo ripetiamo, ripetiamo il titolo, vai. Dirty Diana. Dirty Diana. Dirty Diana, che era una cover alla sì. vostra maniera, chiaramente esatto. alla vostra maniera, una riproposizione di un pezzo di Michael Jackson che voi avete rifatta. Come vi sentivate di fare, al di là di tutto quello che è successo dopo? Ok, sono le 23.37, assolutamente dal vivo, e come tutte le cose dal vivo, adesso suoniamo, che cosa suoniamo ragazzi? Allora, il prossimo pezzo è... Allora, un momento, prima di suonare dobbiamo parlare del live che mi ha detto giustamente sì. Roberto, parliamo un momento del vostro live. Ah, è giusto, bellissimo, venite a vederci. Ecco, esattamente, questa è la prima cosa. Poi come si sviluppa il live vostro praticamente? Beh, allora, di solito arriviamo nei locali alle 5. Cominciamo con una striga di 5 birre da mezzo che no, diventano dai. Diventano 36 nel giro di due ore. In che senso? No, come... Ma, allora, diciamo che allora, nei live penso che sia il momento in cui noi ci divertiamo di più, cioè in cui, comunque in cui tutte le band che suonano dal vivo si divertono di più, perché appunto essendo un progetto nato per l'esigenza proprio di suonare insieme fra di noi, penso che sia la massima espressione del musicista, no? di suonare live, e soprattutto quando suoni i tuoi pezzi live e vedi il riscontro insomma che abbiamo ricevuto in questi ultimi due anni, quindi vedere sotto il palco gente che canta i tuoi pezzi, penso che sia una cosa molto positiva, più grandi certo. che i musicisti possono avere. E sì, ecco, se mi posso permettere, scusa di interromperti. No, intanto volevamo ringraziare davvero, abbiamo avuto delle persone, dei ragazzi che ci hanno seguito dall'inizio, sì. quando andavamo a suonare in spiaggia, che con noi sono stati veramente, veramente splendidi. Ci hanno seguito dappertutto, hanno fatto chilometri e chilometri, chilometri e chilometri, per cui grazie. Scusa. Questo era fondamentale, era importante. Assolutamente, sì. Per cominciare e poi per sviluppare. Il rapporto con sì. i fan è una cosa che ci piace molto. Sì, poi diventano amici. Esatto, sì, esatto. Esattamente, su Facebook. No, dicevo... No, per carità. Ma infatti stiamo creando un nuovo canale che si chiama Evil Book, in cui mandi la nemicizia, in cui mandi in cui i commenti, cioè puoi sentirti libero di commentare. A proposito di questo, dove vi possiamo trovare in internet praticamente? Allora, su internet trovate il disco su praticamente tutti i portali di distribuzione digitale. Quindi se uno lo vuole comprare... Se uno vuole comprare il disco, se uno vuole scaricarselo viene pure da me, quindi glielo passo su. Ma fisicamente se lo vuole avere come fa? No, fisicamente deve venire ai concerti, perché noi li vendiamo solo ai concerti. Okay. Sì. Oppure ci contatta via mail tramite il sito e... Lo ripetiamo il sito, dai. www.elcuentodellacicailatequila.com. Perfetto. Non sbagliate lettere, perché sennò non vi compare niente, vi dirotta ad altre cose. Ad altre cose che è meglio non citare qua. Esattamente. Quindi praticamente così, se uno vuole, però vuole il disco fisicamente, deve venire assolutamente ai vostri concerti. Assolutamente sì, perché no, insomma. E poi chiaramente se avete voglia di chiacchierare con noi, siamo ovviamente su Facebook, mezzo certo. necessario oggi. Esatto. E anche molto comodo in realtà, diciamo. Sì, così. Sì, diciamo beh, la verità, sì. Soprattutto per, insomma, per musicisti o comunque per... Sì. In questo campo qua è veramente uno strumento che ha rivoluzionato molto il modo di sì. interagire, insomma, i propositi. Nel live fate non solamente i pezzi vostri, fate anche delle cover, praticamente. Sì, nel live beh, diciamo che abbiamo... un bel repertorio. Abbiamo sì, abbiamo avuto la fortuna appunto di venire tutti quanti da esperienze diverse. Molto diverse e quindi ognuno di noi ha portato un po' di delle sue, dei suoi pezzi, ha portato un po' un po' delle sue esperienze, siamo arrivati ad avere una cosa, beh, una volta ho fatto una scaletta, abbiamo la scaletta Quento Extended. Ah, perfetto. Che serve per matrimoni, divorzi, funerali, esatto. qualsiasi cosa, dovunque ci chiamino, in cui ci sono una cosa come 70 brani. Quindi tantissimi, sono tantissimi. Proprio, sempre riarrangiati un po' alla nostra maniera. I nostri concerti durano 7 ore. Esattamente, durano 7 ore in cui ognuno di noi ha la bomboletta di ossigeno. Quindi, ma ogni concerto è diverso? Sì, o c'è sì, una, sì. Ogni no, concerto non è diverso? Ce n'è uno uguale. Già non facciamo i pezzi mai nella stessa maniera, per cui. Poi cambiamo anche la scaletta. E come vi siete preparati per stasera praticamente? Ma infatti questa sera non ci siamo preparati, stiamo perfetto. Improvvisando. Cioè, come... no, no, abbiamo la sorpresa per voi alla fine alla fine della puntata. Benissimo. Abbiamo la sorpresina. 23:41, siamo sempre a Rockway, state ascoltando il quento della Chica, la tequila della Chica, pardon, la tequila che è un gruppo di Treviso, dintorni, possiamo dire questo, no? Treviso, Padova e dintorni. Treviso, Padova e dintorni praticamente. Adesso suoniamo che cosa, ragazzi? Allora, il prossimo pezzo si chiama Shower of Flower. E ovviamente anche questo pezzo è una dedica, cioè un pezzo che diciamo che nasce appunto da una storia d'amore. Ma lo spiega Davide perché il pezzo è, il testo è suo. Quindi... Davide, diciamo, si è predisposto. È forse il di tutto il disco il vero e proprio pezzo esclusivamente d'amore. Mm. Con tutti i lati sia positivi che negativi di una storia molto forte. Ecco. Ok. Non c'è altro da dire, da aggiungere. Perfetto. Feel you bring mommy over shower. È bellissimo, molto dondolante, quasi accarezzato, sussurrato col finale, proprio sussurrato a parte di Roberto con le spazzole. Pezzo molto bello, molto da atmosfera, possiamo dire questo, ragazzi, alle 23:48, un'atmosfera giusta. E una cosa volevo chiedervi, i pezzi che avete inciso nell'album, che data portano, cioè risalivano a momenti diversi della vostra carriera? Come scrittura, come... Come scrittura, sì. Sì. Assolutamente sì. Allora, fondamentalmente i pezzi, cioè la traccia, quindi la bozza del pezzo strofa, ritornello, esatto. Li abbiamo scritti io e Davide in svariati momenti della nostra carriera insieme. La vostra attività. Infatti si sente anche magari i pezzi più rock, magari come Mama's Freak, quello che è il primo che abbiamo suonato, il secondo che abbiamo suonato live, quello lì risente molto dell'aspetto hard rock da cui se provieni. Chiaramente. Pezzi invece, non so come... Questo qua, per esempio, che datazione porta? Bah, questo qui è, diciamo, è stato scritto poco dopo Mama's Freak. Ah, ho capito. Quel pezzo così molto, molto, molto rock. E anche questa era nata proprio come pezzo, come ballad, così. E io e Davide, appunto, abbiamo sempre avuto la necessità di percepire un ritmo un po' latino su questo pezzo. Quindi... saprei come definire questo tipo di groove, un po' una via di mezzo fra quello che potrebbe essere una bossa magari sul ritornello e quello che potrebbe essere un finger style. Però possiamo inserirgli, non ti danno una mano i colleghi, no, assolutamente. Possiamo inserire, stanno dicendo ma che cazzo possiamo inserire un momento di swing anche in questo pezzo, leggermente di swing. quella no assolutamente. Grazie. No, un momento di swing. Si è giocato la sorpresa. No, io lo, cioè, su questo verso può darsi che sia quella anche l'onda. Potrebbe essere, sì, un po', appunto, come hai detto tu, un po' di tutto, sì, certamente. Poi, visto che Roberto... poi è un pezzo che piace molto alle ragazze. Esattamente. Cioè, poi, visto che Roberto i suoi dischi ha citato i Weather Report, sì. non è, qui non parliamo di Weather Report, però quel modo di muoversi leggermente può portare a questo, insomma. Birdland. E il finale che ha fatto Roberto, non, chiaramente non c'era un collegamento con Weather Report, però poteva anche essere l'ampiezza. Esattamente, l'ampiezza. Intendo proprio quello io. Da cui pescare. Esattamente. Pezzo, ripeto, molto bello, molto ben fatto. E poi dal vivo, l'avete fatto assolutamente dal vivo in questo momento. Quindi l'avete chiaramente trasformato per le esigenze della serata, o no? Leggermente sì, sì, dai. Leggerissimamente. Cioè, sai cosa? No, beh, anche nel disco è un pezzo che proprio ci piace così com'è, sai, sì. Capito? Quindi è un pezzo, e anche forse, ecco, questo è uno dei pezzi che non offre molti margini di sfumatura, proprio sì. Perché comunque il deve essere della chitarra così. È quello, il groove della batteria è quello. Certo. Il pianoforte è molto. Può essere molto più libero, anche perché c'è il solo di pianoforte in mezzo, che è molto bello. Quindi... Ma Iva si è trattenuto però in questo momento. Spesso. Vabbè. No, okay. È un pezzo che è vero, è molto strutturato, quindi è molto arrangiato, diciamo. Sì, ma in senso positivo, però. La parte più precisa. Però diciamo che ci lasciamo sempre, e anche in questo caso, ci lasciamo sempre il margine per i colori. Ah, ho capito. I colori certo. Sono sempre una cosa che ci fa rendere il pezzo tridimensionale, forse. Sì, sì, e chiaro. Cambia volta per volta, non lo facciamo mai due volte uguale. Certo, certo. Perché non, sarebbe non sterile. Sì. Cioè. La prossima volta, infatti, io inserirò questo nuovo accordo che ho scoperto. Seguito da questo. Su solo. Benissimo. Allora, una facciamo bene, alla prossima puntata, ciao a tutti. No, non abbiamo ancora finito. Adesso ci sarebbe posto per il pezzo, il quarto pezzo da disco che avevate detto. Allora, il quarto pezzo da disco e poi finiamo suonando, chiaramente. E poi finiamo suonando. Allora, il quarto pezzo che abbiamo scelto è un pezzo che si chiama A Wolf Inside. È la traccia numero 10 per il nostro amico Marco in regia. È pronto, sì. È già pronto, boh, perfetto. Allora, questo pezzo si intitola A Wolf Inside, cioè il lupo dentro. Questo qui è un pezzo probabilmente il più recente. Che avete scritto? Che abbiamo scritto, è un pezzo che nasce da una frase che mi ha detto Davide proprio, che mi ha detto Davide, a un motoraduno in cui ci siamo fatti lo stesso tatuaggio che abbiamo sull'avambraccio, ce lo siamo fatti in questo motoraduno qui. Io stavo attraversando un bruttissimo periodo della mia vita e Davide mi ha detto una frase che io mi ricorderò sempre, che mi è rimasta dentro e dalla quale è nato questo pezzo. Lo spunto per il pezzo. Mi ha detto che ci sono delle persone che hanno un lupo dentro. All'epoca si è parlato di orso, insomma. Sono delle persone che hanno un orso dentro, ma il concetto è un po' quello. È che mettere, anziché Wolf Inside, chiamarlo A Beer Inside o A Bear Inside, poteva una birra dentro, poteva essere un po' frainteso, no, comunque. Too much beer inside. No, praticamente questa frase mi ha detto, cioè per quanto ci sono delle persone che hanno questo orso dentro, questo lupo dentro, e per quanto gli spari, gli puoi sparare in faccia, puoi ammazzarlo, ma prima o poi si risveglia sempre. E questa è una cosa che capita spesso proprio ai musicisti, perché i musicisti sono appunto musicisti, artisti in genere, sono comunque persone che hanno una sensibilità un po' diversa, non migliore né peggiore rispetto alle altre persone, un po' diversa. E questo pezzo parla appunto di come il wolf inside, che cioè l'animale che abbiamo dentro, di come riesce a farti toccare il paradiso, toccare il paradiso tanto quanto ti fa sprofondare all'inferno, perché comunque è sempre lì che ti guarda, quando ti specchi lo vedi riflesso nei tuoi occhi allo specchio. Ok, benissimo. E quindi A Wolf Inside è il cuento della cicca e la tequila. Rock Wave, Rock Wave. L'onda del rock, l'onda del rock. When you see him mirrored in your face, you can find him in your eyes. You can find him how you but he'll never let you in. You can hide him in your heart, but he's still watching, still watching you. And you got a wolf inside, and nothing seems to take you down. Gonna sleep no more, like a devil in your soul. And you're about to lose control. You know it's gonna make you die. You know it's gonna give you life. And you know it's gonna break forever your crystal paradise. You know it's gonna give you strength. Gonna live you away, but it's still watching, still watching you. When you got a wolf inside, and nothing seems to take you down. When you got a wolf inside, no one seems to understand. Got a wolf inside. Rock Wave, l'onda del rock. Eh sì, purtroppo abbiamo finito, sono le mezzanotte e due minuti primi. Mi permettete, ragazzi, di salutare e di ringraziare il nostro curatore artistico Alberto Prisco, che grazie a lui stasera siete qua. Ciao Alberto, grazie, grazie mille dell'ospitata. Cosa posso dire? È stata una cavalcata meravigliosa, due ore di musica assolutamente live, con qualche intermezzo da disco, ma era piccolo l'intermezzo. E poi si sentiva questo ultimo pezzo che abbiamo ascoltato, questo assieme di suoni che si proprio un unicum. Il live proprio del gruppo che suona dal vivo si sentiva proprio, aveva questa caratteristica secondo me il pezzo. Stavamo dicendo la stessa cosa, ci auguriamo che vi sia piaciuto. A noi sì, a Marco e a me sicuramente, anche i nostri ascoltatori sicuramente si sono stati soddisfatti. Salutiamo anche la Nicoletta, che è la nostra affezionata, che ama particolarmente questo genere musicale. Allora noi facciamo che noi saluti, possiamo salutare, certo, noi. vai. Ciao mamma, saluta. Dai. Salutiamo allora, Nicoletta, anche noi, anche se tutti non la conosciamo. I nostri fan, tutti quanti quelli che ci seguono, salutiamo il nostro fonico, il sesto membro della band. Il sesto membro della band, che è Andrea Valfre, che è oltre che essere un grandissimo professionista, nonché titolare dell'area Magister Studio, dove abbiamo registrato il disco, certo, è anche un nostro caro amico e compagno di grigliate. Ecco. Noi siamo all'eterna ricerca della grigliata perfetta. Audio Grill. Salutiamo il nostro manager Angela Rossetto e a tutti quanti voi ascoltatori dedichiamo il prossimo pezzo. Ok, grazie alla band, grazie a Marco in regia. Domani ci sarà un altro live curato da Agostino Spolaore. Buonanotte a tutti, no, e grazie. Com'è? Ciao. Non esiste, o primi e ultimi. No help, no help.